Nelle pratiche mal comprese del cristianesimo si pratica questo, che porta alla sensazione della colpa, il peccato come colpa e quindi punizione. E quindi idea di indegnità. Ecco, e questo è tutto quel, attraverso questo modello si pratica questo, cioè l'opposto dell'evoluzione, cioè si radica proprio l'ego. Quindi queste, quando si agiscono queste pratiche di controllo delle emozioni in questo modo, è un modo sicuro per garantirsi non la sopravvivenza, ma l'incremento dell'ego. E dopodiché l'autorità, questo l'abbiamo detto tante volte in Aleph, l'autorità, falsa, in questo caso è falsa, cioè l'autorità egoica, cosa fa? Utilizza proprio la repressione, di un'emozione attraverso il giudizio, quindi lo nomina, proprio dice questo è peccato, in modo che poi questa emozione, questo impulso si perverta e diventi quello che il giudizio gli vuol far dire. Cioè, io ti dico, ti faccio paura, ti punto il dito, ti faccio paura, questo è il primo atto. Il secondo atto, poi ti dico, vedi che sei pauroso? Ma non è proprio uno scherzo, è proprio, capite? È quello che succede nella realtà. Cioè, un padre violento che si rivolge al figlio, lo spaventa e poi quando quello si spaventa dice, vedi, sei un cagasotto, non vali nulla. Colui che provoca il problema è colui che poi lo giudica. In questo caso l'ingiustizia è massima, la persona che è incompetente, che non ha abilità sufficienti, non ha cognizione, ci casca dentro e non ne esce più. Non esce più. E crede in questo modo di adempiere alla volontà di Dio, cioè alla volontà del massimo bene. Quindi, quando questa autorità viene scambiata per massimo bene e questo massimo bene giudica in modo così cattivo, e beh, creda il più forte dei doppi legami. E io mi chiedo perché questo non venga detto con chiarezza, in modo che chi ha da fare ammenda della propria cattiva educazione che ha dato la faccia, perché questo è proprio doppio legame, è proprio induzione alla perversione umana. Ecco. Naturalmente se l'obiettivo è quello di creare persone corrotte, deboli da sottomettere, è un modo geniale, geniale. Ma questo con Gesù proprio, capite che è esattamente prendere Gesù all'opposto, è il contrario. E questo vuol dire poi allontanare dalla spiritualità gran parte delle persone. Questo è l'opposto, e questo qualcuno glielo deve dire. Loro se lo dicono già da soli, quelli che hanno capito lo sanno benissimo, ma queste voci per il momento hanno ancora poca forza. Io spero con questo nuovo Papa, chi lo sa, potrebbe succedere, perché questo è un rivoluzionario, è un francescano. Cioè un Francesco, quindi possibile. Va bene? Grazie. Questo è totalmente centrale, io Sì, credo. Puoi già. ripetere lo schema in modo che Sì. lo fissiamo? Sì, questo lo do come uno, probabilmente potrebbe essere considerato lo schema base che, di tutto il nostro lavoro. Allora, se è un'autorità, l'autorità come sapete può essere animica, cioè vera autorità, questo significa quello che la parola dice, e autorità vuol dire colui che fa crescere, colui che aiuta l'evoluzione. L'autorità è colui che si prende cura delle persone. Poi esiste la falsa autorità, quella egoica, che si chiama sempre autorità, si fa chiamare sempre come autorità, fa finta di essere colei che è messa lì per far evolvere e governare. E invece fa esattamente l'opposto del prendersi cura, fa finta di prendersi cura, ma in realtà quello che fa è sfruttamento. Fatta questa premessa, questo è sfruttamento e non perché questo è servizio, la vera autorità è al servizio, la falsa autorità sfrutta. Pensate solamente a quello che abbiamo detto stamattina di Platone, dei governanti, degli uomini politici, secondo Platone, è un servizio. Invece, che cosa è successo? Che la politica diventa sfruttamento. Allora, questo è venuto anche delle autorità religiose, perché ci può essere un'autorità animica che è di servizio e un'autorità egoica che è sfruttamento. Allora, cosa fa un'autorità egoica di sfruttamento? Il modo migliore per sfruttare è manipolare. Manipolare le coscienze. Come si fa? L'abbiamo detto tante volte, eccolo qua. Qui c'è l'autorità, qui ci sono le persone sottoposte, si crea una nebbia qui, in modo che questi qua non possano riuscire a capire cosa sta succedendo davvero. Bene, adesso vediamo cosa succede nello sfruttamento. Allora, queste persone hanno, mettiamo, l'abbiamo visto infinite volte, una persona umana normale ha degli impulsi. Ma questi impulsi nell'essere umano non sono pervertiti di natura, tutti gli impulsi sono naturali, come tali al servizio dell'evoluzione, non contrari. Ecco. Allora, una falsa autorità cosa ti fa credere? Che i tuoi istinti, i tuoi impulsi siano sbagliati, che siano falsi, che siano da correggere, non da aiutare, indirizzare, ma da correggere, perché sono fondamentalmente negativi. Prendiamo l'istinto sessuale, è perverso, è qualcosa di brutto, che va contenuto, e quindi puoi esercitarlo solo al massimo per fare dei figli, ma proprio per il resto, roba da far sparire dalla faccia della terra, perché è peccato che offende Dio, lo offende come padre, infinitamente buono, quindi deve essere qualcosa di terribile. Poi chiedetemi voi, quando un padre per fronte a un figlio che si offende, che padre è? Non è. Allora, questo impulso, prendiamo l'impulso sessuale, di fronte a un'autorità che ti dice, guarda che l'impulso sessuale è proprio per, stai attento perché guai, mentre normale pratica masturbatoria in un bambino è come per un bambino usare gli occhi, dovrà guardare per imparare a usare gli occhi, e lo stesso dovrà minimamente usare la sessualità se vuole che quei muscoli si allenino, cioè voglio dire, è pratica normale in un organo avere la funzionalità, ogni organo ha dentro proprio il principio di essere esercitato. Gli occhi se non li alleni non ci vedi, le braccia se non le usi rimani paralitico. La sessualità lo stesso, non c'è mica, ci vuole grande scienza per capire sta roba. Allora, se tu però dici questo impulso sessuale è in sé perverso, lo puoi praticare solo in certe situazioni, tanto dopo i 20 anni, magari 30, fino a quel momento non ne devi sapere nulla, ogni pensiero è negativo, ma capisci che tu stai dicendo che la tua natura è corrotta. E quindi appena, siccome la natura comunque agisce, cosa succederà? Succederà che la persona che prova quell'impulso, se è piccolo, un bambino piccolo, viene bloccato da che cosa? Dal senso di colpa, perché questi gli inducono un senso di colpa attraverso il giudizio. Va bene fin qui? A questi punti questo non si fermerà, perché la sua natura è questa. E allora cosa farà? Questo impulso si pervertirà, da sano appunto si perverte. E quindi si accompagna a idee che col sesso non hanno nulla a che vedere, quasi sempre idee collegate a questo. Sadomasochismo non è mica, la perversione, sono tutte le perversioni, sono deviazioni dal normale oggetto. A questi punti, di fronte a queste idee e a queste pratiche, non ci vuole molto per l'autorità che le ha create a giudicarle. Adesso vi rivedete il filmato, perché la cosa ve l'ho detta, credo, abbastanza chiaramente. Rivedetelo più volte e scoprirete che lì dentro c'è uno dei doppi legami più terribili che un bambino può ricevere. Perché questo non è fatto da un genitore, è fatto al servizio del divino, almeno per chi crede a questo in questo modo, cioè della bontà assoluta. Quindi ne deriva che siccome hai questi istinti perversi che non riesci in alcun modo a trattenere, hai un animo cattivo, quindi non vai bene. Da lì deriva il fondamentale senso di colpa e senso di indegnità. Questo almeno era quello. Attenzione, non sono solo le autorità religiose quando a fare questo, lo fanno tutte le autorità, false autorità, trovano dei sistemi per crearti i problemi che poi loro stessi giudicano. Per esempio, nel campo del discorso fiscale, di sicuro gli esseri umani non sono oblativi, non sono persone generose, questo non ci vuole grandi ricerche sociali, grandi ricerche scientifiche per capire che la persona nello stato normale, cioè egoico e quindi narcisista, preferisce tenere per sé, quindi privare gli altri. Ma quando un sistema fiscale fatto in modo tale, per cui se ti comporti onestamente sei rovinato, e se ti comporti in modo scorretto e sei abbastanza ricco invece la fai sempre franca, capite bene che la stessa autorità induce, ecco, anziché far, se chi volesse veramente cambiare il sistema fiscale dovrebbe far capire all'inconscio dei cittadini, cioè fargli arrivare in fondo, che non pagare le tasse è un furto, ma perché un'autorità possa dire questo deve essere un'autorità vera e non colui che ruba più degli altri, capite bene, no? Non è che ci vuole grandi studi da parte accademici per riuscire a capire queste sciocchezze. Ecco, queste sono cose da asilo infantile o da prima elementare. Per questo quando noi parliamo qua dentro, a volte mi dispiace dire certe cose, a volte mi sembra di offendere delle mentalità adulte, ma se la nostra cultura è ridotta così, bisogna pur dirle. Ecco, ecco, questo non sono sciocchezzuole pensate al bagno al mattino, ecco, quando non sa cosa fare. Ecco. Derivano dagli studi più accreditati che ci sono oggi nei nostri settori, quindi solo che vanno detti con modo semplice.